è questo canale di morti? Oh morti, c'è nessuno su questo canale. Vacca le dai, gas. Cucù, c'è nessuno? Cadaveri, gas, cadaveri. Ma tutti i morti sotto, non c'è nessuno qua, là. C'è qualcuno in ascolto sui canali 10? Vabbè. Pronto? C'è nessuno? Oi Capri, come stai? Bene, bene, non c'è problema, ottimamente bene. Le scuole chiudono da oggi sino al 7. Niente, abbo ci lamentano i professori che non fanno i piedi durante l'anno. Beh certo non si toccano, quelle sono come le mie, quelle vintage, non ho dato, ce l'ho tanti anni, non l'ho mai dato. Gli altri lo stesso vintage, non ho dato, quelle che volevo mai le date. Però qualcuno me l'ha tenuta, capito? E va bene, va bene. Per il resto tutto a posto, la casa sia sì, Natale. Però già era che nuovo nuovo, era il suo coso è nuovo, è nero, nero opaco, non l'ho mai toccato da quando l'ho comprato, sempre, non c'è manco un graffio, è perfetto, non ce n'è problema, la radio è perfetta, anche il frontalino, tutto, avevo solo messo le lampadine nuove agli strumenti, se qualcuno era bruciata, siccome sono quelle a siluro, le avevo trovate fortunatamente da Fusaro, capito, e basta, no, la mia è nuova, nuova già, come cosa devo farneciare? Assolutamente, no, non ne ho radio da mettere a posto, quelle che avevo le ho date a te e te le hai tutte sistemate, io non ne ho già, c'è Superstar che è la vetrina, è nuovo, nuovo, nuovo, proprio nuovo, nuovo, nuovo perché era sempre dentro una scatola, ce l'ho fanato, capito, quindi è nuovo, nuovo, l'altro la 48 lo stesso, la vetrina, nuovissimo, nuovo di pacca, l'altro lo stesso, ma guarda che sono tutti in ordine, non ne ho da mettere a posto già, meno male, li prendo, li attacco, li uso, sono perfetti, capito? Sì, confermo, me lo ricordo, perché l'ho avuto il pace 123 ed era nero, invece il pace 123 era un po' più, il colore era diverso. È come tocca il 5008 con tocca il 5024, il colore era diverso. No, è meglio, io guarda, c'avevo un Zodiac o in Noit che poi ho dato a Marco Scorpio, il colore era quel celeste che non mi è mai piaciuto sinceramente, però non l'ho mai toccato. Mai toccato perché il colore suo era quello originale, il colore del Tanner più 2, no? Capito? Il colore suo era quello di originale, anche se era, non mi piaceva, però se sono vintage devi lasciare come sono, è come quando restauri una macchina d'epoca, devi cercare di dare il colore che aveva, se no perde tutto il suo valore, capito? Sì, sono martellate quelle vernici, già me lo ricordo perfettamente, però ti ripeto, bisogna darle il colore suo, anche se non è l'originale, ma cercare di farlo insomma uguale, capito? Perché altrimenti perde tutto il suo valore vintage, no? Poi se vai a venderlo non te lo comprano, tutto lì. E vabbè, non si è sentito un cane stasera. Nulla, tutti in letargo, poi si lamenta, non c'è mai nessuno, sono tutta la sera al computer, ho chiamato 4-5 volte e non ha risposto nessuno, solo tu hai risposto. Aspetta un secondo, Capri. Capri, Gianni, sì.